Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Glee è sicuramente la serie fenomeno dell'anno, direi anche l'unica scommessa vinta dalla televisione americana quest'anno. Basti pensare all'investimento per quello che riguarda le cover delle canzoni e il fatto che comunque poi il CD sia balzato al vertice delle classifiche. È il filone musical che con Glee in realtà viene riportato in auge con l'invenzione in realtà di Ryan Murphy, che poi in realtà ha portato come in uno specchio tutte le star musicali, da Madonna, Jennifer Lopez ad altre, a voler far la fila per essere presente durante questa serie imperdibile. Just a small town girl, living in a lonely world. Le parole di Leo Damerini, curatore del dizionario dei telefilm e di numerosi articoli e pubblicazioni in materia, non ha dubbi. Glee è certamente stato il fenomeno più sensazionale della scorsa stagione televisiva, americana e non solo. La serie narra le gesta di una nutrita e variopinta manciata di studenti in una tipica high school di provincia, tutti giovani talenti in erba che si ritrovano a partecipare insieme al Glee Club, il gruppo di canto e ballo del liceo. Un'attività extrascolastica che all'inizio non sembra destare l'interesse degli studenti, prevalentemente cheerleader e giocatori di football poco avvezzi a melodie e a coreografie. La fortuna del Glee Club la fanno gli sfigati e i reietti, coloro che nei corridoi della scuola ne hanno viste di tutti i colori, sperimentando il bullismo e l'umiliazione in ogni loro possibile declinazione. Cantano e ballano per farsela passare, i ragazzi di Glee, seguendo l'imperativo morale connaturato al genere che incarnano. Non c'è niente di meglio di un pugno di note e di qualche passo di danza per evadere dal grigiore della quotidianità. Glee è solo l'ultimo esempio, in ordine di tempo, quello che ha riportato alla ribalta un genere vecchio di almeno 100 anni, volendo tralasciare le sue ascendenze negli spettacoli di vaudeville e nelle operette settecentesche. Il bisogno di evasione, d'altronde, è insito nell'uomo fin dagli albori della sua storia, e il popolo americano, in particolare, nel corso di tutto il Novecento, ha avuto modo di interiorizzare questa missione e di far qualunque cosa per metterla in pratica. Le note che sentite in sottofondo sono quelle della colonna sonora di un celebre film dal titolo Cappello a cilindro. E la voce che tra poco inizierà a cantare è quella di un uomo famoso più per le sue gambe che per la sua ugola. Stiamo parlando naturalmente di Fred Astaire, re indiscusso delle danze sul grande schermo insieme alla sua fidata compagna Ginger Rogers. I due iniziarono ad allietare gli occhi e le orecchie del pubblico con le loro esibizioni nei classici musical hollywoodiani proprio negli anni che seguirono il grande crollo finanziario del 29. Un modo efficace per regalare un po' di spensieratezza in tempi tanto travagliati. Ecco quello che il musical cerca di dirci con insistenza da oltre un secolo. Se la vita non è come vorremmo, è sempre meglio immaginarsela gioiosa e spumeggiante come uno spettacolo di cabaret. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the cabaret. Cosa ci fai seduto tutto solo nella tua stanza? Vieni qui che c'è la musica. La vita è un cabaret, amico mio. Vieni al cabaret. Questo è quello che ci intimano di fare le note appena ascoltate. A cantarle è una ragazza, e lo farà parecchi anni dopo le performance leggiadre e svolazzanti di Fred Astaire e Ginger Rogers. Eppure riuscirà a conservarne in qualche modo lo spirito indomito e ottimista. Questa voce appartiene a una 26enne che fin dalla culla ha respirato volente o nolente la magica atmosfera dei musical e più in generale del luccicante, inebriante mondo del cinema. Lei è la nostra prima protagonista di oggi. Il suo nome è Liza Minnelli. Liza Minnelli. Sì, un posto dove non cacciarmi nei guai. Tu credi che esista un posto del genere, Totò? Deve esistere. Certo non ci si potrà arrivare con un piroscafo o con un treno. Deve essere molto, molto lontano. Oltre la luna. Oltre le nuvole. La voce che sentite è di Judy Garland nella sua prima apparizione cinematografica da appena 16 anni nella pellicola che la renderà celebre, Il Mago di Oz di Victor Fleming. Un gigantismo da far quasi invidia a Via col Vento. 65 scenografi, 4.000 costumi per 1.000 interpreti, tra cui 350 nani, 136 giorni di riprese, un costo finale di $2.700.000. Numeri strabilianti per l'epoca, coronati da un successo trionfale e duraturo che catapulta la giovane protagonista Judy Garland nell'Olimpo delle star hollywoodiane, regalandole anche un Oscar come miglior giovane interprete, categoria coniata praticamente su misura per lei. Con una madre così, non è difficile intuire quali siano le ambizioni della piccola Liza Minnelli, classe 1946. Nata dalla 24enne Judy Garland, 8 anni e svariati film dopo il suo trionfo nel Mago di Oz. Una celebrità come mamma e un cognome che parla da solo. Già perché Minnelli, nel rutilante universo di Hollywood, è sinonimo di musical. With my high starch collar and my high top shoes and my hair piled high up on my head. Sentite questa voce? È ancora quella di Judy Garland, che canta nel film Incontriamoci a St. Louis. E indovinate un po' chi c'è dietro la macchina da presa. Mr. Vincente Minnelli, noto regista di commedie musicali in teatro e ora a partire dai primi anni 40 acclamato autore di lungometraggi. E Liza in persona a ricordarlo. But my father was great because my father didn't follow any rules. Mio padre era grande, non seguiva nessuna regola. Faceva quello che gli pareva e lo faceva in modo da ottenere sempre il risultato che voleva. Galeotto è proprio il set di Incontriamoci a St. Louis per la ragazza prodigio Judy Garland e il regista Vincente Minnelli. Segue a breve un matrimonio e due anni più tardi la nascita di Liza, che come da copione passa l'intera infanzia divisa fra i set delle produzioni della Metro-Goldwyn-Mayer in cui sono impegnati i genitori. Liza cresce respirando quell'atmosfera e ci si abitua in fretta. Per lei quegli studi pieni di luci, grandiose scenografie e incredibili costumi non sono i luoghi da sogno venerati e sospirati dalle bambine della sua età. Per lei quei luoghi sono la sua casa, punto. Se i suoi genitori fossero stati minatori, lei sarebbe cresciuta in una miniera. Siccome invece sono due star, Liza cresce a pane e palcoscenico, non fa una grinza. Ma c'è una piccola falla nel ragionamento. È improbabile che la figlia di due minatori da grande voglia continuare la tradizione di famiglia, ed è invece assai più probabile che la figlia di due star hollywoodiane voglia vedere un giorno o l'altro il suo volto impresso sul grande schermo. Da questo punto di vista, oltretutto, Mr. Minnelli sembra far di tutto per incoraggiare le velleità della figlia. Non ha mai smesso di farmi intravedere le infinite possibilità dei sogni. Per esempio, mi chiedeva, chi vorresti essere oggi? Se vedeva che ero triste o corrucciata o avevo qualcosa che non andava, come capita a tutti i bambini. Magari un altro papà si sarebbe comportato in maniera diversa. Lui invece mi chiedeva cosa avrei voluto diventare quel giorno. E io rispondevo, ad esempio, vorrei essere una ballerina spagnola. E lui diceva, va bene. Allora prendevamo la macchina e andavamo a comprare carta, spilli e altre cose. E siccome lui era stato un costume designer a Chicago, quando arrivavamo a casa cominciava a piegare, tagliare, creare. E poi mi chiedeva, allora Liza, cos'è che fa una ballerina spagnola? E io, balla? E lui, certo. Il destino per la figlia di due pezzi da 90 dello show business hollywoodiano sembra già decisamente segnato. So let me entertain you and we'll have a real good time. Yes, sir. Have a real good time. Eppure non è detto che la vita sia tutta in discesa solo perché sei figlia di due icone dello Star System. Vincente Minnelli ricorda le difficoltà di sua moglie Judy, perennemente alle prese con la dipendenza da alcol e pillole. She got a hold of pills. Aveva cominciato a prendere pillole già da prima che fossimo sposati. Ne prendeva un sacco. A quel tempo era l'oscuro di tutto. Andammo a New York per la luna di miele. Lei buttò via le pillole nell'East River. Disse che se ne sarebbe sbarazzata per sempre. Ma non appena tornammo in studio, sul set, ricominciò a prenderle per alleviare la tensione. Il gesto eclatante, teatrale, di rovesciare una confezione di barbiturici nelle acque newyorkesi è sintomo di un disagio più grande di quanto si possa immaginare. Nell'aprile del 1947, appena un anno dopo la nascita di Liza, durante le riprese del film Il Pirata, la Garland crolla d'improvviso a causa di un terribile esaurimento nervoso ed è costretta a ricoverarsi d'urgenza in un centro di riabilitazione. A nulla valgono i disperati tentativi d'aiuto del marito, che la dirige anche in questa pellicola, e del coprotagonista Gene Kelly, acclamata star della commedia musicale. Judy è in grado di terminare le riprese, ma nel mese di luglio il suo fragile equilibrio si spezza nuovamente e la induce a tentare per la prima volta il suicidio, ferendosi i polsi con i pezzi di vetro di un bicchiere rotto. Vincente Minnelli sa bene che tra la piccola Liza e la moglie Judy non è certo quest'ultima a brillare per maturità e senso di responsabilità. Judy was the juvenile. Judy era quella infantile. Liza era l'adulta. Da bambinetta già faceva finta di intervistare la servitù, i cuochi. Il matrimonio tra la Garland e Minnelli naufraga quando Liza ha solo 5 anni, schiacciato dal peso delle difficoltà personali di Judy. Ma per Liza non si tratta di un'esperienza traumatica, al contrario. Entrambi i genitori si risposano più volte e per Liza la famiglia non fa altro che allargarsi sempre di più. A 13 anni ha un patrigno, una matrigna, un fratellastro, una sorellastra da parte di suo padre e altri fratelli e sorelle avuti dalla Garland dopo di lei. Spesso le capita di prendersi cura dei membri più piccoli della sua nuova famiglia, così come le accade di essere l'unica a saper gestire le intemperanze della madre, costantemente sull'orlo del baratro emotivo. Una figura materna tanto famosa, tanto grande, eppure tanto fragile, è sicuramente ingombrante sotto diversi punti di vista, sia da quello di figlia che da quello di giovane artista in erba. Cresciuta sui set delle più sensazionali produzioni hollywoodiane, non è difficile credere che Liza non abbia mai vissuto con grande slancio la realtà scolastica. Le aule, i banchi, i corridoi, la sala mensa e la palestra non rappresentano una grande prospettiva se comparati alla grandiosità degli studios. Il fatto di avere cambiato 14 scuole diverse in pochi anni non deve aver aiutato a fomentare la passione per i libri. Né Minnelli né la Garland dunque si stupiscono quando Liza, sedicenne, annuncia di volersi trasferire a New York da sola per cercare la propria strada. Ma perché proprio nella Grande Mela? Because that's where the stage was. Perché è lì che c'era il palcoscenico. Per Liza, cresciuta come sua madre a pane e musical, non c'è posto migliore dove tentare la fortuna. A Manhattan, all'incrocio tra la 42esima strada e Broadway, si trova il luogo prediletto da ogni feticista del palcoscenico. Questa è la Great White Way, la via nei cui teatri hanno vissuto e vivono i più grandi musical della storia. Questo è il posto perfetto per Liza, lontano da Los Angeles, dagli studios, dalla fastidiosa fama di figlia di, che teme di portarsi sempre appresso ovunque vada. Ricordo di aver chiamato mio padre e avergli detto: papà, è meraviglioso, questo è quello che voglio fare nella vita. E lui mi disse: va bene, ma devi dirlo tu a tua madre, non ti aspettare che lo faccia io. I genitori non le proibiscono di prendere la strada che preferisce, ma scelgono di non supportarla economicamente. Qualche amico di famiglia prova a darle una mano. Frank Sinatra le spedisce $500 in una busta, ma Liza, orgogliosa, glieli rimanda subito indietro. Vuole cavarsela da sola a tutti i costi. È ansiosa di smentire la diceria che i figli d'arte siano necessariamente figli di papà. Vuole dimostrare di avere ereditato dai suoi il talento e il carattere, evitando in tutti i modi di sfruttare quei nomi altisonanti per ottenere privilegi nel mondo dello spettacolo. La voce da usignolo ereditata dalla madre Judy Garland fa notare Liza a tutti i provini in cui partecipa. Il suo primo ruolo è in una produzione off-Broadway, un revival di un musical degli anni 40, per cui riceve buone critiche e il suo primo riconoscimento, un Theatre World Award. L'anno seguente, quella stessa mamma che le ha donato una voce tanto potente la invita a duettare con lei sul palco del Palladium di Londra. Liza in quest'occasione scopre di aver presa sul pubblico, anche se teme che la sua figura sia offuscata da quella davvero imponente della mamma. Meglio tornare a New York e dimostrare sul campo il proprio valore. Stavolta non più nelle produzioni di nicchia del circuito off, ma in quelle vere e proprie di Broadway. Nel 1965 il musical Flora, The Red Menace la consacra, regalandole un Tony Award a soli 19 anni. Liza è giovanissima e la sua carriera sui palchi di Broadway sembra lanciata ben al di fuori del cono d'ombra dei genitori. Eppure quel sogno di bambina, quel desiderio di vedere se stessa proiettata su uno schermo cinematografico, non l'ha mai abbandonata. Certo, il palcoscenico, che si tratti di Broadway o di Londra, regala enormi soddisfazioni. Ma dopo tutto, lei è figlia di due leggende della celluloide e le sue velleità come attrice cinematografica sono inalienabili. Per approdare in grande stile al grande schermo, però, Liza ha bisogno di un incontro. E sarà proprio un uomo che incarna lo stesso ruolo del padre Vincente, quello di regista, a spalancarle le porte del mondo del cinema. Scopriremo chi è tra poco, qui, a Destini Incrociati. Gather around, I've got a story to tell about a Manhattan lady that I know very well. She lives at 5 Riverside, her name is Shirley DeVore, and she traveled round the world to meet the guy next door. Well, there was trouble inside apartment 29E, 'cause Shirley's mother and dad were as upset as can be. They said, "We hate to complain, dear, and we don't like to grouse." Destini incrociati. La domanda che Destini Incrociati ci pone è: può bastare il fatto di essere figli d'arte per sfondare nel mondo dello spettacolo? Liza Minnelli ha preso la voce dalla mamma Judy Garland, che già da bambina cantava Somewhere Over the Rainbow nei Il Mago di Oz di Victor Fleming. Da suo papà Vincente Minnelli, invece, ha ereditato la tempra d'acciaio. Lui, genio della commedia musicale, è regista di capolavori tra cui Incontriamoci a St. Louis e Un americano a Parigi. Liza però vuole trovare la sua strada senza far leva sui nomi altisonanti dei genitori ed è pronta a sfondare a Broadway contando solo sulle proprie forze. La determinazione conta più di qualsiasi cognome e nel 1963, a 17 anni, Liza sceglie di trasferirsi a New York, il posto ideale se sei affamata di palcoscenici. Liza inizia una brillante carriera a Broadway, ma il tarlo di seguire le orme dei genitori e apparire sul grande schermo non l'abbandona mai. Le occasioni anche in questo senso non le sono mancate fin da piccola. La sua prima apparizione sulla pellicola l'ha fatta alla tenera età di 3 anni, insieme alla madre Judy Garland. E nel corso degli anni 60, proprio mentre è impegnata nei teatri di New York, le capita di bazzicare su qualche set cinematografico. Nel 1969, tanto per dire, interpreta il ruolo di Pookie Adams nell'omonimo film di Alan J. Pakula, ruolo per il quale si merita una nomination all'Oscar. Ma una nomination non le basta. Liza è una ragazza ambiziosa, vuole vincere, e per farlo ha bisogno di un incontro decisivo. Questo, puntuale, arriva. Oh, he's wonderful. Era meraviglioso, ombroso e divertente allo stesso tempo. Adorava ridere e aveva sempre il punto di vista giusto sulle cose. Era un regista semplicemente straordinario. Questa descrizione entusiasta corrisponde all'uomo che all'inizio degli anni 70 lancerà Liza nell'Olimpo delle star del grande schermo. Anche lui proviene dal teatro, anche lui è cresciuto a pane e musical. Il suo nome è Bob Fosse. Bob Fosse. Nato il 23 giugno 1927 a Chicago, Bob è il più giovane di 6 figli. Si diploma al liceo, ma della scuola non gli importa nulla. Il suo cuore batte per la danza. Gira per i locali dell'Illinois, pieno di ambizioni e speranze, lavorando come intrattenitore e inventandosi numeri di ballo appena ne ha l'occasione. Il primo ricordo che ha di una sua coreografia originale è piuttosto nitido. C'erano 4 ragazze che muovevano ventagli a forma di ostrica e in sottofondo suonava una musica di Cole Porter. L'Illinois ovviamente non è il posto giusto in cui stare se si vuole sfondare nel mondo della danza. Meglio spostarsi a New York, anzi a Broadway. Nel corso degli anni 50, Bob viene scritturato in svariati musical in cartellone e persino in diverse produzioni hollywoodiane. Il tutto grazie al suo indubbio talento come ballerino. Sogna di essere il nuovo Fred Astaire, ma nonostante le innegabili capacità, non riesce mai ad emergere. È sempre uno fra i tanti, fa fatica a distinguersi dalla massa di coloro che tentano di sfondare in quell'universo. Il suo destino, forse, non è quello di stare su un palcoscenico, o almeno non proprio sopra di esso. Meglio dietro, o al di là delle sue assi scricchiolanti. In ogni caso, sempre nei suoi dintorni, comunque vada. Sono l'uomo più felice del mondo durante le prove. Bob Fosse non abbandona i palcoscenici, li travalica in un certo senso. Passa dall'altra parte della barricata, iniziando a dirigere le coreografie di diversi spettacoli. L'amore per quel luogo tanto magico viene sublimato e appagato in un ruolo nuovo e fondamentale, quello del regista. Non si tratta solo di coreografare e dirigere spettacoli teatrali. L'ambizione di Bob lo spinge a cercare di ritagliarsi uno spazio anche nel mondo del cinema, diventando un degno successore di quelle figure monumentali di registi, tra cui spicca, fra gli altri, anche il padre di Liza Minnelli. Esordisce alla regia alla fine degli anni 60 con il film Sweet Charity, adattamento musicale di Le notti di Cabiria di Federico Fellini, interpretato da Shirley MacLaine. Ma è il suo lavoro successivo, quello su cui Bob capisce di dover puntare tutto. Si tratta del remake cinematografico di un musical già di stanza a Broadway e la sua interprete femminile è già stata scelta durante una lunga sessione di casting. L'attrice designata è una giovane in cerca di conferme del suo talento. Lei si chiama Liza Minnelli e si innamora di Bob Fosse a prima vista. Aveva un lato scuro che faceva emergere in modo ironico. Era humor nero, ma lui sapeva renderlo spassoso e anche sexy. Era un uomo molto sexy. He was a very sexy man. Liza si mette letteralmente nelle mani di Fosse, lasciando che lui plasmi a suo piacimento le movenze e i passi di danza necessari all'interpretazione. Già perché in questo nuovo film Liza deve vestire i panni della spregiudicata ballerina di un club nella Berlino ambigua e opulenta dei primissimi anni del nazismo. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Signore e signori. Il Kit è qua, una famosissima attrice, giovane e bella, talmente spiritosa che... Talmente spiritosa e affascinante che non più tardi di ieri io le ho detto: cara, ti vorrei per mia moglie. E lei mi ha risposto: e tua moglie che cosa vuole da me? Cosa vuole da me? Ed ecco a voi la grande stella internazionale, la famosissima Fräulein Sally Bowles. You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger. Not a lamb, mine hair. Il film di cui state ascoltando un celebre stralcio di colonna sonora è Cabaret. La strepitosa Sally Bowles, interpretata da Liza Minnelli, intrattiene a colpi di note e di movenze accattivanti gli avventori del Kit Kat Club, locale berlinese dove la realtà sembra essersi cristallizzata rispetto all'esterno. Se sul palcoscenico del club le ballerine si muovono in un turbinio di luci e di colori, fuori da quell'universo protetto, impazza la furia nazista che porterà la Germania sull'orlo del baratro ed oltre. Grazie a certe astuzie e abilità nella scelta delle coreografie, delle inquadrature e degli stacchi di montaggio, Bob Fosse riesce a riflettere nel cabaret una grossa parte delle tensioni di quegli anni, drammatizzando il progressivo disfacimento di un mondo. Il perfetto equilibrio tra vis comica e tensione narrativa fa di Cabaret un incontrastato capolavoro del genere e consacra nell'immaginario collettivo la figura di Liza Minnelli. Nei panni di Sally Bowles, infatti, la Minnelli si configura come una vera e propria icona. il trucco forte intorno agli occhi, le ciglia lunghissime, un taglio di capelli a metà fra la star del muto Louise Brooks e la strega di Biancaneve. Impossibile non restarne affascinati. Bob Fosse dirige un film intenso, divertente e allo stesso tempo angosciante, spassoso eppure amaro. I numeri di canto e di danza sono il collante perfetto dei vari passaggi narrativi. In essi Liza Minnelli dà il suo meglio, sotto la guida di un coreografo davvero illuminato. Il momento di cantare arriva quando il tuo livello di emozione è troppo alto per parlare semplicemente. E il momento di ballare arriva quando il tuo livello di emozioni è così alto che nemmeno cantare ti basta più. Sally Bowles canta e balla per sopravvivere alle durezze della vita, alla solitudine, ai prodromi del nazismo. Per Liza Minnelli, invece, la realtà non potrebbe essere più rosea. Ha incontrato Bob Fosse e grazie a lui può finalmente coronare il suo sogno di bambina. Può dimostrare sul grande schermo di che pasta è realmente fatta la figlia di due leggende del cinema classico. Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. Destini incrociati. Ja? Guten Tag, Fräulein. Bin ich bei Schneider? Bitte. Ich suche ein Zimmer. Fräulein Schneider ist nicht zu Hause. Hai per caso una sigaretta? Sto morendo dalla voglia di fumare. Ah, sì, sì, sì. Credo di averla. Sì. Oh, fantastic. Ma lei è americana? Accidenti, che delusione. Volevo farti credere che ero una seconda Matari. E ci sto esercitando da mesi. Ho saputo che qui c'è una camera da affittare. Non sarà troppo cara. Spero. Visto che eleganza. Mi chiamo Sally Bowles. E io Brian Robert. Vieni avanti, Brian, tesoro. Ah, schön. Englischen Zigaretten. Hai sentito? Il tedesco mi ha preso la mano. Da quanto tempo è qui? Un'eternità. Vale a dire? Sono più di 3 mesi. In questa meravigliosa pensione familiare. Meravigliosi inquilini. Siamo tutti al verde, è chiaro. Ma chi non lo è di questi tempi? Nel 1972, il musical Cabaret conquista le platee cinematografiche del mondo intero, portando alla ribalta due talenti incontenibili, quelli dell'attrice Liza Minnelli e del coreografo e regista Bob Fosse. Il film è un grandioso successo. A fronte di 6 milioni di budget, ne incassa addirittura 42. Un trionfo di pubblico e di botteghino. E anche la critica vuole dimostrare il suo apprezzamento pressoché incondizionato. Le nomination da parte dei membri dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences raggiungono quota 10. Il 27 marzo 1973, al Dorothy Chandler Pavilion di Los Angeles, Cabaret conquista ben 8 premi Oscar su 10 nomination. Liza Minnelli sembra non avere dubbi sui meriti di una simile impresa. Bob Fosse è la ragione di tanto successo. D'altronde, io sono la figlia di un regista. A chi dovrei dare il merito se non al regista? Anche Liza, tuttavia, merita la sua sacrosanta parte di gloria e l'Academy, in questa occasione, non manca certo di tributargliela. And the winner is... Liza Minnelli. La categoria di migliore attrice e protagonista non può che essere sua. D'altronde Liza ha fatto uno splendido lavoro, cesellando il suo personaggio con cura e passione fino a renderlo memorabile. Niente di tutto questo, però, sarebbe stato possibile senza la guida del regista che l'ha diretta. Anche lui, quel giorno, si merita di essere onorato. And the winner is Bob Fosse for Cabaret. La gioia di Fosse è incontenibile. Quello stesso anno, nella categoria che premia il miglior regista, Bob si contende il premio con un autore del calibro di Francis Ford Coppola, in gara con il suo capolavoro Il Padrino. Le vicende di Don Vito Corleone si meritano la statuetta di miglior film, premio che per tradizione viene consegnato direttamente nelle mani dei produttori. I membri dell'Academy scelgono dunque di lasciare Coppola a bocca semi-asciutta, preferendogli le invenzioni danzanti di Fossi. Liza Minnelli non potrebbe essere più d'accordo. Se finalmente è riuscita a conquistare i cuori del grande pubblico, il merito è quasi tutto del regista di Cabaret. You wouldn't wonder at all if you could see us through my eyes. I guarantee you would fall like I did when we're in public together. I hear society mourn, but if they could see us through my eyes, maybe they'd leave us alone. La canzone che sentite, tratta proprio dalla colonna sonora di Cabaret, si intitola Tomorrow Belongs to Me, il domani mi appartiene. A cantarla non è Liza, ma il suo co-protagonista Joel Grey. Eppure il titolo sembra pensato apposta per la Minnelli. Da Cabaret in poi, il futuro è tutto nelle sue mani. E non potrebbe sembrare più roseo di così, almeno all'apparenza. Liza è straordinaria. La sua voce è una sorta di strumento musicale con tanto di amplificatori incorporati. Oltre al canto, poi, Liza sa infondere un'interpretazione drammatica ai suoi pezzi, donandogli un appeal che va al di là della pura sequenza di note. Talento e carisma fanno di lei una figura importantissima per l'intero corso degli anni 70, capace di influenzare con il suo stile gli ambienti e i personaggi più disparati, dallo studio 54 di Andy Warhol fino alle nuove leve della musica pop internazionale. Liza, grazie alle movenze e ai trucchi imparati sul set da Bob Fosse, sarà prototipo e imprescindibile influenza per artisti come Michael Jackson, Freddie Mercury, che da lei imparano a combinare le potenzialità vocali con la forza simbolica dei piccoli gesti, piccoli movimenti, in grado di spalancare da soli un universo teatrale. Ma al di là dell'incommensurabile talento, c'è una donna fragile, vittima degli stessi errori che anni addietro hanno annientato la madre Judy Garland. In teoria nessuno ci cascherebbe, specialmente se avesse visto le cose che ho visto io. A meno, ovviamente, di non poterne proprio fare a meno. Credo che ormai abbiano scoperto che esiste un gene che porta all'alcolismo. Così mettiamo a tacere tutta la gente che dice «Ah, è solo questione di pigrizia, di autocommiserazione, di mancanza di forza di volontà». Io ho vinto 3 Tony, un Oscar, 3 Golden Globe. Vi sembra che mi manchi la forza di volontà? Non credo proprio. Questa è una malattia. E prima ce ne rendiamo conto, meglio sarà per tutti. Liza è vittima delle dipendenze, proprio come lo è stata sua madre, morta nel 69 a causa di un'overdose di barbiturici. Nonostante l'abuso di alcol e la sequela di matrimoni sbagliati, il suo faro brilla luminoso. Dopo il successo di Cabaret, è la volta dello spettacolo Liza with a Z, concerto filmato nel quale è diretta ancora una volta da Bob Fosse. Grazie a Liza with a Z, i due vincono ben 4 Primetime Emmy Awards. Nel 1977 Liza lavora con Martin Scorsese nel suo celebre musical New York, New York. La sua interpretazione dell'omonima canzone è leggendaria. La stella di Liza ormai brilla luminosa tra i fari dello show business. Bob Fosse, proprio come la Minnelli, nonostante i successi, passa la vita in guerra coi vizi. Chi lo conosce bene sa che non rinuncia alla sigaretta nemmeno sotto la doccia. Eppure il suo talento, una volta dischiuso agli occhi del mondo, gli regala un'aura di invincibilità. Niente sembrerebbe poterlo scalfire. Credo che alcuni di noi possiedano un senso di immortalità e la convinzione che tanto non succederà a me, succederà al tuo vicino di letto o a quello dell'altra parte del corridoio, ma non a te. E invece, dopo decenni passati a lavorare e vivere fin troppo intensamente, Bob Fosse soccombe ai suoi vizi. Dopo aver girato la sua autobiografia in celluloide dal titolo All That Jazz e aver vinto una Palma d'Oro al Festival di Cannes, un infarto lo stronca a Washington il 23 settembre del 1987, quando ha soltanto 60 anni. Io non so come funzioni con gli altri. Con me funziona così. Come diceva Charlie Chaplin, siamo tutti dei dilettanti. La vita non dura abbastanza per poterci dare il tempo di diventare qualcos'altro. E ogni volta che inizio qualcosa di nuovo, il primo giorno, è come se fosse il primo in assoluto e mi dico, oh mio Dio, c'è chi pensa che con la danza non dovrebbe trattarsi di una cosa tanto difficile, piede destro, piede sinistro, o salti sull'uno oppure sull'altro, non dovrebbe essere una decisione tanto complicata da prendere. E allora dico, piede destro, coraggio. Ci piace pensare che l'uomo, il regista, il coreografo che ha guidato Liza Minnelli verso il successo, sia uscito di scena così, accennando un passo di danza. Ladies and gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? I told you so. We have no troubles here. Here life is beautiful. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.